buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma non vai al mare? Ecco. Vabbè, datti di cosore per te si la risa. Invece non mai. Forza che per noi non ce n'è bello bene, questo poi da me, diciamo pure di Luca Russo. Ti stai pulendo il furgone? E allora? Hanno pulito il furgone, sistemandolo, approvvigionando, e tu mi dici a mari. E vabbè, facciamo che invece un po' di tregua, me lo uccidi. Ho cambiato l'apparato, me l'ho tolto, vado a vedere su, adesso l'ho messo rapido diciamo, però stazionale ci sono, ho allungato il capo, però stazionale ci sono. Un e 4 attaccato, staccato sull'1, 1 e 1 e sul 40, 1 e 3. Ci sentiamo più tardi, dai. Una bella passata così almeno. Vai, fai già, io mi sto svegliando, mi sono seduto qua a prendere un po' di e riflettere su quello che devo fare. Già ci sentiamo dopo. Normale, dai, è normale, tutti al mare, scendendo a Passamano per Paese, tutto pieno di macchine, attenti, quasi quasi nessuno. Chissà che ci sarà una storia per Alghero. Dopo una lunga settimana di lavoro è chiaro che la gente sempre se ne va al mare, che lo può fare? Io non, ancora non ci posso andare, ma dal prossimo mese già mi voto in piedi, mi voto tutto il mese a mare. Ok, dai, ok, ora sarà molto più evaso. Sarà molto più gente, soprattutto sarà più caldo e più coperto lì. Non c'è un filo di corrente, se fosse tutti i giorni così, sembra la radio sordo muta. Ma infatti è strano, che non si sente neanche un filo di propagazione, nulla. Così la mattina presto con questo caldo, propagazione le sforare con i fiatri, sì, a metà mattinata. Ancora no, troppo presto. Ok, dai, me lo metto. Ah, pizzicato. Dico, come al minimo si è giocato, la patente o un po' verbale? Voltava la stradale, fede l'Uquipo, sorpassando, la parete in faccia. Allora c'è il tallo, non manco male, non è andato si bomeni. Qua si stanno mettendo spesso anche i vigili urbani. Chi che oggi si è fatto la zorrata? L'avete sorpassato una striscia tratteggiate quella di mezzeria? No, adesso hanno fatto, ti ricordi che di fronte al bar lì di Ottava c'erano tutte le zebrature, adesso hanno fatto tutta striscia continua e lui ha sorpassato lì, si vede che non li ha visti. Si prepari il nuovo la patente, perché quello è un muro, capito? Dove c'è la fissa continua non puoi passare, quindi si prepari una bella giornata oggi. Sì, sapevo che lo vieni in frequato oggi. Minimo ritiro di patente, perché c'è il limite di 50, più sorpasso in un centro abitato, ma che no. Sì. Ma infatti, sicuramente la prende buona. E tutti in presa, tutti andare così, vai, curi, vai. Vado, non fanno. Non fa camminare, cazzo, sono sempre assucchiato qua. Camminetti, sempre assucchiato. Sto per tenere sempre con la media, e poco la va. Certo che sì, anche perché lì è un grande pericolo. Lo so, da quando è successo quella questione là, di quella ragazza là, adesso molto spesso si stanno mettendo i vigili con l'altra. Già ci vuole, anda piano zia. Ma io già ne ho problemi. Io vado piano, non problema. Tanto la macchina che io non è che si può correre più di tanto. Ma lì devono fare qualcosa, però ho qualche sovrappassaggio, qualcosa per attraversare, perché il problema è l'attraversamento lì. Ma intanto non lo usano, fra. Non lo usano, quello delle punti, perché che fine ha fatto? Adesso mi sembra che lo stanno ripulendo, stanno facendo. Però ogni tanto te ne vede alcuni in chili in mezzo carriera. Sì, quello di punti lo vogliono ripristinare. Stanno facendo tutto l'impianto lì, 3-4 camere, stanno pulendo, capito? E lo vogliono ripristinare, giustamente. Ma lì non si può fare, capito? Non si può fare. Allora credo che facciano dei sovrappassaggi come ci sono a Cagliari lì in Calo Mastir. Ci sono dei sovrappassaggi, però. Anche la vera impressione che i gas e camion erano perduti in chili. Quello è proprio ma sicuro, se tu fai caso lì dove c'è la rotatoria per girare a Platamone ci sono quei cartelli che sono già beccati. ma quelli lì sono beccati quando hanno carichi superiori alla norma, capito? Perché i cartelli sono a un'altezza, diciamo, di norma, e se lo becchi evidentemente sei fuori nell'altezza, sei fuori portata. Infatti non si sa mai, gli esce uno sopra il sottopassaggio che sta camminando, passa un articolato fuori norma, come dici tu, mi rampa sia lo sottopassaggio la Henry Bull. La trova. Va bene, va bene. Ma nulla ha cambiato? Vabbè che non avrà cambiato niente, dai. Sarà sempre lo stesso. Sono qua quasi la cartolina, vabbè. Guarda, ti sei inchiodato sul 9 e non si sposta, sei 9, 9 abbondante fisso e non ci sono problemi, sai. Peccato, dai, vabbè, dai. Ma lo lascio così, non mi interessa. Già andare, già andare. Tocca, ti saluto, dai, che sono già arrivato. Dai, se coincide ci sentiamo lì da casa, dai. Ehi, ehi, ma io non so, mi sto dicendo se mi metto il barecchino in macchina. Fanno un giretto, se tu vanno in dubbio di uscire a per il mio caffè, non so. Adesso decido cosa fare, dai. Comunque sono qua, dai. Vai tranquillo, ci sentiamo dopo. Avanti, Alessandro, cazzo. Ma non sono Alessandro, sono Alessio, sono un bambino. Che è così basso, Mauro? Per quello che ti sento basso. Ai, caro, caro. Pezzo di una via, già fino a entrare, già. L'altro che l'ha fatto, ma che ce l'avevi fatto? Ehi, ciao, Torebo. Buongiorno, buongiorno anche all'altro amico. Mi stavo ascoltando, mi sono sentito vicino e tu. Ti ho sentito, sono entrato a salutarti, dai. Ehi, buongiorno, già mai ti sentito. Dopo tanto, cosa hai combinato? Cosa ho combinato? Cosa ho combinato? Ma già sto più bene comunque adesso, va. Mi hanno seduto in questa sedia, questa poltrona pieghevole, piatta, si vara, e sono bello sdraiato e vicino al baracchino, capito? Sto più bene comunque, Antonio, adesso, dai, un po' di pazienza, e poi ci vuole. Dice che si è caduto all'albero, ma quando mai deve fatto salire, all'albero non c'è neanche salire, ma anche se, capito, ma anche se è pieno, per dire. Oggi mai c'è l'età che c'hai, mi non è che si è tutto il bene, se avessi avuto 30 anni si sarebbe anche salito, per dire, ma questa età qua, boh. E doveva succedere a Torellare, doveva succedere, quando si muore un demonio, non ci dovevo salire, beh, ultimo più vera, che, ma mi è andata bene, per cui posso ringraziare la Madonna, dai, è andata bene, deve essere molto peggio, per cui tranquillo, Poi riprendi e fai girare la ruota, Antonè. Sì, d'accordo, Mauro, riprenditela. Attento, Mauro, ci sei. Carito. Ma deve essere stato in macchina, perché lo sentivo basso basso, Come sta andando questa pericia, Antonè? Bene, bene, sta a voi, va bene. Robe e 36, dai 5. Che fa piacere, dai. Va bene, Antonè, dai, buon proseguimento e buona domenica a te e famiglia, dai. Ci sentiamo, Antonè, non è che possa parlare tanto, dai. Ciao. Giammai ci sentiamo alle prossime, capi bene, buona guarigione, alle prossimine. Hola, hola Raiola, hola. Attenzione canale 10, cambio. Ciao Sandri, il segnalone ma una radio che fa pena. Sala, non si può pretendere molto, ok, è standard, siamo una radio normale. Roger, come mi ascolti, perché? Sandro, ciao, Marchetto. Vabbè. Ora. Allora no. la radio a sé. Che nome è la radio? Aspetta, aspetta. Mamma mia, importantissima per me. Che sì, è poco, ma a me è poco, mi piace quando tu metti la portante. Hola, Sandro. Hamburger con cipolla e ti serve? Pagnotella. È tutta la roba. Oggi sei leggero, mi complimenti. Ecco la prego fatta, mi raccomando, stai leggero, no, non ti preoccupare, cazzo, hamburger con cipolla, pagnotella, vai a prendere su un buon po' di maionese, no? No, ma erano piccolini questi che servi? Ah, per fila. Erano piccoli, ci sembravano polpette. Piccolini, quelli piccolini, quelli che fa cosa, no? No, piccolini, tu le polpette ce le presenti, no? Come si fanno le polpette? Gli hamburger. Li ho schiacciati, Sono diventate grasse. Senza né burro e niente, così, a fare la fuoco. Avessi preso quelli grandi grandi eccetera eccetera. Va bene Giuseppe, io ti saluto perché qua ti ripeto c'è da morire, mi dai un po' la salone e lascio qualche radio accesa e se coincide ci sentiamo più tardi, eh. Ti saluto anche Fabretto, saluto anche Sandro Conan Borghero e ci sentiamo dopo Giuseppe, se mai già lo sai, capito? Ciao. Problema, non problema, Claudio, non problema. Avanti. Falchetto, qui c'è il sindaco di Proaghe, aiuto, che ti facciamo sfogare con la figlia del sindaco, aiuto. Falchetto, Sorrando, va nella Cucassi, Giuseppe, riposati, ci sentiamo stasera, più tardi, vai. Quando rinfresca un pochino non si può fare l'aria adesso. Al limite stasera facciamo una scappata con la famiglia, dai. Ok, sentiamo dopo. Ciao. Mia, vai da me. La mazza te ne vai. Comunque se senti a Sandro Tigre, ricordati quella questione. Hai capito, Chloe? Non ti preoccupare, si già deve passare qua, tanto la tua salva stasera. Ma ci sentiamo dopo, Giuseppe, troppo caldo, c'è cazzo, la stare in aria a quest'ora, mi si girano le balle. Ci sentiamo dopo, riposino e poi ci sentiamo dopo, eh. Al limite ci vediamo anche in verticale, capo. Ok, va bene, dai. Buon tutto, dai, ce la risentiamo. Ciao. Ricordati che bisogna ritirare quella roba Antonello, capito? Cappa, eia, Gloria, se lo sai che colori senta anche se non me le dati. Che se non è mai